appena giri qua ti rendi conto della grande vitalità. Poi è ovvio che ci possono essere tutti i problemi possibili, cioè non sto dicendo che non ci sono i problemi, anzi, però a noi è subito emerso molto il potenziale vitale, creativo, no, di questa situazione. Cioè noi venivamo da un quartiere dove, ahimè, abitavano solo degli anziani. Era raro veder passare qualche bambino davanti alla nostra porta. Qui vederli, insomma, per noi è stata una botta di vitalità, come dire, oh, finalmente siamo in mezzo ai bambini, siamo in mezzo ai ragazzi. Tante età, oltre che appunto nazionalità differenti, oltre agli italiani, ma proprio il fatto che ci siano tante persone di età diverse che si interfacciano l'una con l'altra, sì. È vero. Anche il fatto che il contastorie della zona sia il signor Danilo, che insomma, no, racconta i piccoli, è già bello, significativo. In via Torniolo, dentro il parco, proprio dentro il parco, abbiamo l'accoglienza e si accolgono situazioni di ogni genere, non solo legate alla trasfusionetta e tutti gli altri bisogni che ho detto, no? Però l'approccio è sempre quello, cercare di attivare le persone, l'animazione e quant'altro, avere delle relazioni sensate, eccetera. E qui, in questa zona, abbiamo appunto l'accoglienza, poi in via Toniolo, dove si fa l'accoglienza di genere, abbiamo anche il sostegno agli adolescenti, il sostegno alle famiglie, indipendentemente dal fatto